Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Al Made Expo di Milano, la grande fiera dell'edilizia, il risparmio energetico si è indubbiamente segnalato come la star di quest'ultima edizione. Tra le iniziative più interessanti c'era la sezione dedicata alla rivalutazione dei borghi e dei centri storici. Un numero per tutti. Sono circa 5.000 i borghi pluricentenari che ospitano meno di 10.000 abitanti nel nostro paese. Un patrimonio dal valore immenso che è necessario salvaguardare per moltissime ragioni, per il valore storico e artistico, ma anche perché tutto sommato i luoghi intorno a cui sono nati i moderni centri abitati erano quasi sempre i luoghi migliori in cui costruire e andare a vivere. E questo senza contare che edifici i quali abbiano resistito ai secoli non possono che essere costruiti perlomeno ragionevolmente bene e perciò sicuramente da recuperare. È proprio questo il primo dato da cui inizieremo la nostra discussione con l'ospite di oggi, che è Francesco Marinelli, direttore del progetto Borghi Intelligenti, il quale a sua volta fa parte di un alveo più grande, un progetto che si chiama Borghi Autentici d'Italia. Buonasera Marinelli. Buonasera a voi. Allora, intanto ci dia due coordinate su questo progetto. Borghi Autentici d'Italia è un'associazione di oltre 100 comuni italiani che si sono dati un obiettivo, che è quello di modificare il modello di sviluppo che li caratterizza. Uno dei progetti strategici si chiama Borgo Intelligente ed è il tentativo che questi comuni vorrebbero fare per rendersi energeticamente autosufficienti e quindi lavorando essenzialmente su alcune linee di sviluppo. Una è quella della riqualificazione del centro storico, quindi di come edifici, interi centri storici costruiti centinaia di anni fa possono oggi garantire prestazioni energetico-ambientali comparabili a quelle a cui siamo abituati. Ecco, le chiedo subito allora di confermare o di smentire un fatto. È vero che le case, le vecchie case, insomma, che si trovano in molti centri storici sono tutto sommato migliori di molta edilizia anni 50-70? Questo sicuramente. C'è da dire che in Italia ciò che è stato costruito nel secondo dopoguerra fino agli anni 80, ma purtroppo anche dopo, da un punto di vista costruttivo e quindi anche delle prestazioni energetiche sono molto deficitarie. Senta, ma com'è che queste case costruite nel 500, nel 600, nel 700 sono migliori da un punto di vista costruttivo? Beh, sono costruiti con materiali molto pesanti, con una ottima inerzia termica e quindi offrono alle intemperie esterne una migliore protezione. Ovviamente sono deficitarie in alcuni componenti, ad esempio gli infissi, però basterebbe migliorare dei componenti di questi edifici per averli oggi molto tranquilli dal punto di vista energetico. Ecco, aggiungo una cosa con la quale chiuderei però questa parentesi, poi spesso anche come è strutturato il borgo. Certamente, cioè come il borgo si caratterizzava, quindi come si esponeva al sole o ai venti e anche la modalità addensata degli edifici, praticamente ognuno proteggeva anche l'altro e questo ovviamente aiuta, compensa i deficit energetici. Inoltre erano case costruite per non avere un sistema di riscaldamento o per averne uno estremamente inefficiente, un camino, e quindi insomma erano case che in realtà venivano costruite con grande attenzione. Infatti. Ecco, c'è addirittura un paradosso che riguarda la certificazione energetica da questo punto di vista, ce ne vuole parlare? Ecco sì, il problema è che per calcolare e quindi per poter certificare energeticamente si usano dei programmi di calcolo che sono stati pensati per edilizia nuova e danno all'edificio storico una prestazione non positiva. Molto peggiore di quella che hanno in realtà, ed è questa molto la cosa peggiore di che quella conta. Che hanno in realtà e che poi ognuno di noi può percepire quando entra in un vecchio edificio abitato. D'accordo, ecco, quindi abbiamo stabilito che sono buoni edifici, abbiamo anche spiegato perché. Quali sono però i punti deboli che comunque questi edifici insomma hanno? Beh, uno, spesso non hanno subito corretti interventi di riqualificazione. E di lì nasce un'altra problematica, come si interviene per la riqualificazione anche energetica di edifici che non sono contemporanei, con quali materiali, con quali tecniche, con quali modalità andiamo a controllare il loro funzionamento. E qui sarebbe interessante ad esempio fare delle termografie. Ecco, le termografie ne parleremo prima o poi in altre puntate, comunque sono delle specie di fotografie della casa nell'infrarosso in cui si vede da dove esce il calore, quali sono le perdite. E quindi dove deve intervenire per far sì che questo foro dal quale l'energia e il calore esce, certo, non dia più questo problema. Solo che, ecco, sulle costruzioni storiche è molto carente diciamo, la ricerca, cioè come oggi si può intervenire rispettando le caratteristiche costruttive e diciamo originali dell'edificio, ma migliorandone decisamente le prestazioni energetiche. Ci sono in generale vincoli architettonici in questi contesti che rendono difficile fare degli interventi di efficientamento o normalmente si riesce comunque ad operare? Ma con un po' di buon senso si riesce ad operare, magari sostituendo un intonaco normale in un termointonaco, lavorando su infissi che magari rimangono di legno ma che hanno caratteristiche diciamo più attuali, e cercando di intervenire nella coibentazione dei tetti senza che questo appaia all'esterno. Ecco, ci vuole molta molta più attenzione, anche perché gli edifici di solito hanno delle caratteristiche che oramai non riconosciamo più, quindi bisogna fare molta attenzione a non modificare diciamo la modalità costruttiva originaria. D'accordo, va bene, grazie Marinelli, allora buon approfondimento di questo tema. Grazie a voi, buonasera. Bene, siamo in chiusura, mi permetto di segnalare che questa può essere una direzione molto interessante anche di investimento, per esempio per imprese che operino nel campo della ristrutturazione. Mister Kilowatt si chiude qui, domani torneremo per parlare di risparmio energetico nei grandi centri commerciali che normalmente fagocitano grandi quantità di energia. Questo è tutto, buona serata a tutti.